una fila di riga con dita sporche. Notti lunghe attaccando cartine corte. E non ci rompere il cazzo, andiamo oltre. Facciamo fuoco, pollice nato nel logo. Dirty finger, facce bianche come meringhe. Diploma underground senza stagnole e siringhe. Lo vorresti ma potresti fare meglio, non credo. Non ti sporchi le mani per non sporcare il corredo. Non ti racconto, ti spiego perché ne so, ne so. È l'attitudine al core contro l'abitudinario soft. È un ritorno preparato e più strong. Un corno, rappo con meno fiato e più bong al giorno. E nello stile di Dina, rime su rime, con l'aggiunta di stilo di psilo, chilo su chilo. Mani sporche ti accompagnano in galera. Sto con le dita sporche, sì, e stappo il fondo anche stasera. La faccia è sporca, dirty finger. Il suono bomba, dirty finger. Della riviera, dirty finger. Con il gelato, dirty finger. La faccia è sporca, dirty finger. Il suono bomba, dirty finger. Dalla riviera, dirty finger. Lascia un altro, dirty finger. Picchia forte, picchia duro, tu vai a fare in culo. Dirty fingers la mia vita, mani e faccia contro il muro. Niente frasi di rispetto, se io sono l'eletto. Scrivo sempre più di getto, ho battaglia senza elemento. Non c'è storia che ti stia allenare, perché sono il meglio. Le dita non ti vuoi sporcare, sarò mai sveglio. E vi credete superiori? Quattro pagliacce, tutti finti toffa sotto i riflettori. Spingo dalla mia periferia, nessuna garanzia. Bere a fumare alla larga dalla polizia. Sfogo della fantasia, racchiusa in un'alchimia. Ancora un altro tiro e dopo volo via. Questo è il mio stile di vita, giro con le mani sporche. Occhiaie e borse sotto gli occhi e facce sempre più sconvolte. Dirty finger, sul bicchiere. Cosa starà bruciando dentro il mio braciere?